fare rete e valorizzare la soft economy, cioè questa delle imprese che fanno eccellenza, dei centri di ricerca che fanno eccellenza, di innovazione legate alle realtà territoriali. C'è bisogno di questa consapevolezza in cui sono i territori nel loro complesso, quindi tutto ciò che aiuta a fare rete al sistema produttivo, economico, di ricerca, di innovazione che sta sul territorio, aiuta nella competizione, quindi è un appuntamento importante.